Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento di metà giornata con l'Europa. Parliamo innanzitutto di lavoro. Ci sono sviluppi positivi per il lavoro nell'Unione Europea, con disoccupazione che scende e di lavori a tempo indeterminato che continuano ad aumentare, ma gli effetti della crisi hanno fatto aumentare anche le disparità e continuano a farsi sentire. Così la commissaria europea per il lavoro Marianne Thyssen, che presentando il rapporto 2015 sull'occupazione ha poi indicato come la mobilità possa aiutare le imprese a trovare le necessarie capacità e i lavoratori a trovare un impiego. La commissaria ha annunciato che è stato preparato un pacchetto legislativo per favorire la mobilità dei lavoratori tra i paesi europei, ma che la sua presentazione è di fatto bloccato dalla trattativa con la Gran Bretagna. È frustrante, ma è necessario attendere l'esito del negoziato, ha detto la Thyssen, specificando che il pacchetto intende dare concretezze e certezze giuridiche. Spero che sia possibile presentarlo in primavera, concluso. E ora parliamo di un dibattito. Infatti, tra poco a Strasburgo si parla di cittadini europei detenuti in India. Ovviamente il nostro pensiero va in Marò. Nell'agenda del giorno, il titolo della risoluzione che il Parlamento discuterà tra poche ore nella plenaria di Strasburgo è «Cittadini europei detenuti in India, in particolare italiani, estoni e britannici». Ma il contenuto non corrisponde. Nel testo di cui si discuterà, infatti, non c'è alcun riferimento all'Italia o agli italiani detenuti, ovvero i Marò. Nemmeno nel titolo, che infatti è «Risoluzione sui marinai estoni e britannici prigionieri in India». Eppure nei testi di 7 gruppi politici presentati sul tema il riferimento ai Marò c'era e come, ciascuno accompagnato da una proposta o richiesta di intervento. Che può essere successo? Ci sono varie ipotesi. Secondo alcuni hanno prevalso le pressioni estoni, che non volevano l'accostamento tra il caso dei loro marinai, penalmente meno rilevante, e quello dei militari italiani. I 14 estoni e 9 britannici marinai della Seamen Guard Ohio furono infatti fermati in acque territoriali indiane nell'ottobre 2013 con l'accusa di possesso illegale di armi. Per i Marò l'accusa, come sappiamo, è omicidio. Ma la richiesta di censura, diciamo così, potrebbe essere arrivata anche da parte italiana. Con il Tribunale Internazionale di Arbitrato, che a fine marzo si pronuncerà sulla richiesta di rientro in Italia di Salvatore Girone, far troppo rumore ora potrebbe essere controproducente. Il 15 febbraio saranno passati 4 anni dall'incidente dell'Enrica Lexi. Almeno altri 2 ne passeranno prima che l'arbitrato internazionale decida sulla giurisdizione del caso. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione europea risponderà sull'interrogazione urgente sul capo di gabinetto del presidente Jean-Claude Juncker, Martin Selmayr, direttamente ai parlamentari europei che l'hanno presentata. Lo ha chiarito il portavoce Margherita Schinas durante la conferenza stampa di metà giornata a Bruxelles. Abbiamo l'abitudine di rispondere direttamente e non a mezzo stampa alle interrogazioni parlamentari, ha detto chi chiedeva un commento. Risponderemo dunque ai parlamentari, ribadendo che peraltro appunto il portavoce ha insistito sul fatto che Juncker parla normalmente con gli eurodeputati. Insomma, tutto questo per una questione che, come sapete, ha innescato parecchie tensioni all'interno del sistema delle nazioni dell'Unione Europea, in particolare con l'Italia. L'iniziativa è stata presa in questo caso da Nicola Danti, europarlamentare del PD, vicino al presidente del Consiglio Renzi, che ha chiesto chiarimenti sul fatto che il capo di gabinetto abbia rispettato, nell'ambito della sua funzione, il codice interno di buona condotta amministrativa. Ieri, comunque, Juncker aveva lanciato segnali di distensione dopo appunto gli attriti verbali con Renzi, affermando che non esiste un problema Italia. Per oggi è tutto sugli aggiornamenti di metà giornata. Un saluto naturalmente questa sera, vi rimando all'appuntamento invece della nostra Youson, quindi gli incontri di Radio 24 con gli europarlamentari europei. A stasera, un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.